detto ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni fasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. La Locanda della Tormenta presenta Conan, Colosso Nero. Buon ascolto. La notte del potere, quando il fato si aggirava nei corridoi del mondo come un colosso appena sorto da un antichissimo trono di granito. E. Hoffman Price, la ragazza di Samarcanda. 1. Solo un antichissimo silenzio gravava sulle misteriose rovine di Kutkemes, ma il terrore era presente. Il terrore vibrava nella mente di Sheva Tassilladro, facendogli sibilare il fiato tra i denti serrati. Si trovava là, unica scintilla di vita tra quei colossali monumenti di desolazione e di rovina. Neppure un avvoltoio si profilava come una macchia nera nella vasta volta azzurra del cielo che il sole faceva baluginare con il suo calore. Da ogni lato si levavano i cupi resti di un'antica età ormai dimenticata. Dappertutto lunghe e ondeggianti linee di mura distrutte, ciclopici blocchi di pietra caduti e immagini frantumate, le cui orribili sembianze erano state in parte erose dai venti e dalla tempesta di sabbia. Nessun segno di vita da un orizzonte all'altro, solo la liscia distesa mozzafiato del nudo deserto, tagliata a metà dalla linea irregolare dell'alveo di un fiume in secca da secoli. In mezzo a quella distesa sorgevano le scintillanti zanne delle rovine, le colonne ritte come alberi spezzati di navi affondate. Ogni cosa dominata dalla torreggiante cupola d'avorio davanti alla quale Shevatas stava fermo in preda al terrore. La base della cupola era un gigantesco piedistallo di marmo che si levava da ciò che un tempo era stata una sporgenza terrazzata sulle sponde dell'antico fiume. Ampi gradini conducevano a una grande porta di bronzo della cupola che poggiava sulla sua base come la metà di un uovo titanico. La cupola stessa era di avorio puro, scintillante, come se mani sconosciute continuassero a lucidarlo tutti i giorni. Allo stesso modo brillava la dorata punta spirale del pinnacolo e l'iscrizione che avvolgeva tutta la curva della cupola con geroglifici d'oro lunghi diversi metri. Nessun uomo sulla terra era capace di leggere quei caratteri, ma Shevatas rabbrividì di fronte alle congetture che davano a intendere, perché l'uomo proveniva da una razza antica le cui leggende arrivavano fino a forme neppure sognate dalle tribù contemporanee. Shevatas era magro e asciutto ed era divenuto il più abile ladro di Zamora. La sua piccola testa tonda era rasata, il suo unico indumento un perizoma di seta scarlatta. Come tutti quelli della sua razza, era di carnagione molto scura e dal viso affilato simile a quello di un avvoltoio in cui risaltavano i vividi occhi neri. Le sue lunghe dita sottili e affusolate erano rapide e nervose come le ali di una falena. Da una cintura placcata d'oro pendeva una corta e stretta spada dall'elsa ingioiellata, chiusa in un fodero di cuoio operato. Shevatas maneggiava l'arma con un'attenzione apparentemente esagerata. Sembrava persino rifuggire dal contatto del fodero con la coscia nuda. Ma questa cautela era dovuta a buoni motivi. Questi era Shevatas, ladro tra i ladri, il cui nome veniva pronunciato con timore reverenziale nelle bettole del maglio e negli scuri anfratti sotto i templi di Bel, e che avrebbe vissuto nelle canzoni e nei miti per 1000 anni. Eppure la paura divorava il suo cuore mentre si trovava di fronte alla cupola d'avorio di Kutkemes. Anche uno sciocco poteva vedere che c'era qualcosa di innaturale in quella struttura. I venti e i soli di 3000 anni l'avevano sferzata. Però il suo avorio e il suo oro si levavano brillanti e lucenti, come nel giorno in cui erano stati eretti da mani sconosciute sulle sponde del fiume senza nome. Quella innaturalità era in accordo con l'aura generale che permeava quelle rovine infestate dai demoni. Quel deserto era la misteriosa distesa ubicata a sud delle terre di Shem. Pochi giorni ad orso di cammello, indietro verso sud-ovest, come Shevatas sapeva, avrebbero condotto il viaggiatore in vista del grande fiume Stige, nel punto in cui il corso d'acqua svoltava verso destra rispetto al suo corso precedente e fluiva verso ovest per sfociare finalmente in un mare lontano. Nel punto in cui si trovava la curva iniziavano le terre di Stigia, la dominatrice del cuore nero del sud, le cui terre, bagnate dal grande fiume, si levavano direttamente dal deserto circostante. Shevatas sapeva che ad est il deserto diveniva una steppa estesa fino al regno ercaniano di Turan, che sorgeva in tutto il suo barbarico splendore sulle sponde del grande mare interno. A una settimana di distanza verso nord, il deserto si scontrava con un groviglio di nude colline, oltre le quali si aprivano i fertili altipiani di Kot, il regno più meridionale delle razze iboriane. A ovest il deserto si univa alle praterie di Shem, che si spingevano fino all'oceano. Shevatas sapeva tutte queste cose senza essere particolarmente consapevole di questa conoscenza, così come un uomo conosce la disposizione delle vie della sua città. Il ladro era un accanito viaggiatore e aveva depredato i tesori di molti regni. Però adesso esitava e tremava davanti alla più grande avventura e al più favoloso tesoro del mondo. Sotto quella cupola d'avorio giacevano le ossa di Tugrakotan, il tenebroso negromante che aveva regnato su Kutkemes 3000 anni addietro, quando i regni di Stige e di Acheron si estendevano assai più a settentrione del grande fiume oltre le praterie di Shem e fino agli altipiani. Poi la grande migrazione degli Iboriani si era spinta a sud delle loro terre natali, nei pressi del Polo Nord. Era stata una migrazione titanica, durata secoli. Però nel regno di Tugrakotan, l'ultimo mago di Kutkemes, barbari dagli occhi grigi e dai capelli chiari, vestiti di pelle di lupo e cotte di maglia, erano calati dal nord nei ricchi altipiani per creare il regno di Kot con le loro spade di ferro. Si erano abbattuti su Kutkemes come un'onda tempestosa, lavando con il sangue le torri di marmo, e il regno di Acheron era stato distrutto dal fuoco e dalla rovina. Però, mentre stavano distruggendo le vie di quella città e abbattendone gli arcieri come grano maturo, Tugrakotan aveva ingerito uno strano e terribile veleno e i suoi sacerdoti, dal viso coperto da una maschera, lo avevano rinchiuso nella tomba che lui stesso si era preparato. I suoi devoti erano periti accanto a quella tomba in un olocausto sanguinoso. Ma i barbari non erano riusciti a sfondarne la porta e neppure a scalfirne la struttura con il fuoco o con i magli. Così se n'erano andati, lasciando la grande città. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni fasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Sta in rovina, e nel suo sepolcro dalla cupola d'avorio il grande Tugrakotan dormiva indisturbato, mentre le lucertole della desolazione rosicchiavano le colonne crollate e il fiume stesso, che lambiva quelle terre nei tempi antichi, affondava nelle sabbie e si prosciugava. Più di un ladro aveva cercato di rubare il tesoro che le leggende dicevano giacesse accumulato attorno alle ossa ammuffite all'interno della cupola. E più di un ladro era morto davanti all'ingresso della tomba, mentre molti altri venivano perseguitati da sogni mostruosi fino a morire con la schiuma della pazzia sulle labbra. Così Shevatas rabbrividì mentre fronteggiava la tomba. E il suo tremito non era dovuto solo alla leggenda del serpente che si diceva sorvegliasse le ossa dello stregone. Su tutte le leggende che circondavano Tugra-Khotan aleggiavano come un manto l'orrore e la morte. Da dove si trovava, il ladro poteva vedere i resti della grande sala dove i prigionieri, incatenati, venivano fatti inginocchiare a centinaia durante le cerimonie per essere decapitati dal re sacerdote in onore di Set, il dio serpente della Stigia. Da qualche parte, non troppo distante, si trovava il pozzo, tenebroso e terribile, dove le vittime urlanti venivano date in pasto ad una morfa mostruosità senza nome che proveniva da una profonda caverna infernale. Le leggende volevano Tugra-Khotan più che umano. Ancora persisteva il suo culto degradato e degenerato, i cui adoratori coniavano la sua effigie sulle monete per pagare il passaggio dei loro morti sul grande fiume delle tenebre, di cui lo Stige non era altro che l'ombra materiale. Shevatas aveva visto quell'effigie su monete rubate da sotto la lingua dei morti e la sua immagine si era stampata indelebilmente nel cervello del ladro. Però mise da parte le sue paure e salì fino alla porta di bronzo, la cui liscia superficie non aveva né chiavistello né serratura. Non per nulla Shevatas era riuscito ad accedere a culti oscuri. Aveva ascoltato i macabri sussurri dei devoti di Skelos sotto gli alberi nel cuore della notte e aveva letto i libri proibiti rilegati in ferro di Vatelos il cieco. Inginocchiandosi davanti al portale, Shevatas cercò la soglia con dita agili. I suoi sensibili polpastrelli trovarono sporgenze troppo piccole per essere identificate con la vista e per dita meno allenate a scoprire. Premette queste sporgenze con cautela e, secondo un particolare sistema, cantilenando mentre lo faceva un incantesimo da tempo dimenticato. Mentre spingeva l'ultima sporgenza, balzò in piedi con frenetica rapidità e colpì il centro esatto della porta con un colpo secco della mano aperta. Non ci furono cigolii di molle o di cardini, ma la porta si aprì verso l'interno e il fiato uscì sibilando in maniera esplosiva dai denti serrati di Shevatas. Comparve un corridoio breve e stretto. La porta era scivolata lungo il corridoio e ora era sistemata all'altra estremità. Il pavimento, il soffitto e le pareti del corridoio erano d'avorio. Poi, da un'apertura laterale, giunse un silenzioso orrore strisciante che si sollevò e fissò malignamente l'intruso con terribili occhi luminescenti. Era un serpente lungo 7 metri, dalle brillanti scaglie iridescenti. Il ladro non perse tempo a congetturare quali pozzi tenebrosi sotto la cupola avessero dato nutrimento al mostro. Cautamente sguainò la spada e da essa gocciolò un liquido verdastro uguale a quello che colava dalle zanne a scimitarra del rettile. La lama era impregnata dello stesso veleno del serpente e l'impresa di ottenere quel veleno dalle paludi infestate dai demoni di Zingara avrebbe costituito da solo una saga. Shevatas avanzò guardingo sulla punta dei piedi, le ginocchia leggermente piegate, pronte a balzare da un lato o dall'altro come un fulmine. Ed ebbe bisogno di tutta la velocità e del suo coordinamento quando il serpente, inarcando il collo, attaccò, estendendosi per tutta la sua lunghezza con la rapidità di una saetta. Però, nonostante la rapidità e la prontezza dei suoi riflessi, Shevatas sarebbe morto se non fosse stato per un caso. I suoi piani accurati di balzare di lato e di colpire il collo proteso vennero annullati dalla folle velocità dell'attacco del rettile. Il ladro, appena in tempo, allungò la spada davanti a sé, chiuse istintivamente gli occhi e gridò. Poi la spada gli venne strappata di mano e il corridoio si riempì di un orribile dibattersi e agitarsi. Aprendo gli occhi, stupito di trovarsi ancora in vita, Shevatas vide il mostro sollevare e contorcere il corpo viscido in preda a convulsioni fantastiche, con la spada conficcata tra le enormi fauci. La fortuna aveva scagliato l'arma in pieno contro il punto nel quale il ladro aveva mirato alla cieca. Pochi istanti dopo, il serpente si accasciò tralucide spire appena frementi, non appena il veleno sulla lama ebbe fatto effetto. Scavalcandolo con cautela, il ladro spinse la porta, che questa volta si spostò di lato, rivelando l'interno della cupola. Shevatas si lasciò sfuggire un grido. Invece della totale oscurità, si trovò avvolto da una luce cremisi che pulsava quasi oltre la possibilità della sopportazione umana. Proveniva da un gigantesco gioiello rosso posto in alto nella volta della cupola. Shevatas rimase a bocca aperta, sebbene fosse avvezzo alla vista di ricchezze. Il tesoro era là, accumulato in una sbalorditiva profusione. Pile di diamanti, zaffiri, rubini, turchesi, opali, smeraldi, ziggurat di giada, giaietto e lapislazzuli, piramidi di lingotti d'oro, teocalli di lingotti d'argento, spade dalle else ingioiellate dal fodero d'oro, elmetti dorati dalle variopinte creste di crine di cavallo o dalle piume nere scarlatte, corsaletti di scaglie d'argento, armature tempestate di gemme indossate da re guerrieri sepolti da 3000 anni. Calici ricavati da un'unica pietra preziosa, teschi placcati d'oro con pietre di luna nelle orbite, collane di denti umani con gemme incastonate. Il pavimento d'avorio era coperto da uno spesso strato di polvere d'oro che scintillava e brillava sotto il bagliore cremisi, come un milione di luci scintillanti. Il ladro si trovava in un meraviglioso luogo di magia e di splendore e calpestava le stelle sotto i suoi calzari. Però i suoi occhi erano puntati sulla piattaforma di cristallo che sorgeva nel centro di quella sfavillante collezione, direttamente sotto il gioiello rosso, e sulla quale dovevano trovarsi le ossa ammuffite, divenute polvere con il trascorrere dei secoli. E mentre Shevatas osservava, il sangue defluì dal suo volto scuro, il suo midollo si tramutò in ghiaccio e la pelle della schiena si accapponò, mentre il ladro rabbrividiva per l'orrore e le sue labbra balbettavano senza emettere alcun suono. Poi, improvvisamente, ritrovando la voce, emise un unico orribile grido che echeggiò odiosamente sotto la volta della cupola. Quindi, il... Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni fasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Silenzio dei secoli ricoprì nuovamente le rovine della misteriosa Kutkemes. Due. Le voci partirono dalle praterie e giunsero fino alle città degli Iboriani. Corsero lungo le carovane, le lunghe file di cammelli che avanzavano lentamente sulla sabbia, guidate da uomini magri dagli occhi di falco e dai bianchi caftani. Vennero trasmesse dai pastori dal naso aquilino delle praterie e dai nomadi che vivevano nelle tende agli abitanti delle tozze città di pietra, dove sovrani dalle barbe nere ricciolute adoravano con riti curiosi divinità dal ventre rotondo. Le voci passarono attraverso le colline, dove sparute tribù pretendevano tributi dalle carovane, e giunsero ai fertili altipiani, dove severe città sorgevano su laghi azzurri e fiumi. Marciarono lungo le ampie e bianche strade affollate da carri trainati da buoi, da greggi mugghianti, da ricchi mercanti, da cavalieri vestiti d'acciaio, da arcieri e sacerdoti. Si trattava di voci provenienti dal deserto che si trovava a oriente della Stigia, molto a sud delle colline di Cotia. Un nuovo profeta era sorto tra i nomadi. Gli uomini parlavano di guerra tribale, di un addensarsi di avvoltoi nel sud-est e di un terribile capo che conduceva le sue orde in rapido aumento alla vittoria. Gli stigiani, sempre una minaccia per le nazioni settentrionali, apparentemente non erano coinvolti in questo movimento. Infatti stavano ammassando gli eserciti ai loro confini orientali e i loro sacerdoti stavano operando magie per combattere quello stregone del deserto che gli uomini chiamavano Natok il Velato, perché il suo viso era sempre nascosto. Però l'orda si riversò verso nord-ovest e i re dalla barba nera morirono davanti agli altari dei loro dei panciuti e le loro città dalle tozze mura vennero inondate di sangue. Gli uomini dissero che gli altipiani degli Boriani erano l'obiettivo di Natok e dei suoi salmodianti seguaci. Le scorrerie dal deserto non erano un fatto eccezionale, ma quest'ultima insurrezione sembrava promettere più di una semplice razzia. Le voci dicevano che Natok aveva unito sotto il suo controllo 30 tribù nomadi e 15 città e che un principe stigiano ribelle si fosse unito a lui. Quest'ultimo fatto fece assumere alla questione l'aspetto di una vera e propria guerra. Però a Coraja, ricavata dalle terre scemite grazie alle spade di avventurieri cotiani, venne lanciato l'allarme. Trovandosi a sud-est di Kot, avrebbe sopportato tutto il peso dell'invasione e il suo giovane re era prigioniero dell'infido re di Ofir che tentennava tra il rilasciarlo in cambio di un enorme riscatto o il consegnarlo al suo nemico, il miserabile re di Kot, che non offriva oro, ma un vantaggioso trattato. Nel frattempo, il governo del regno in difficoltà era nelle candide mani della giovane principessa Yasmela, la sorella del re. I menestrelli ne cantavano la bellezza in tutto il mondo occidentale e in lei si incarnava l'orgoglio della dinastia reale. Però, quella notte, l'orgoglio le venne strappato come si strappa di dosso un mantello. Nella sua stanza, il cui soffitto era una volta di lapislazzuli, il pavimento di marmo era ricoperto di rare pellicce e le pareti erano ornate da fregi dorati, 10 nobili ragazze dalle snelle membra, appesantite da bracciali e cavigliere tempestate di gemme, dormivano profondamente su cuscini di velluto attorno al giaciglio reale, con la sua piattaforma d'oro e il baldacchino di seta. Ma la principessa Yasmela non si cullava su quel morbido letto. Giaceva nuda, con il suo levigato pancino, sul nudo pavimento di marmo, come la più umile delle supplicanti, i capelli scuri sciolti sulle bianche spalle, le agili dita intrecciate. Era distesa e tremava, del terrore più abietto che le gelava il sangue nelle membra, le dilatava i bellissimi occhi, le faceva rizzare gli scuri capelli e le faceva rabbrividire la pelle lungo la spina dorsale. Sopra di lei, nell'angolo più scuro della stanza marmorea, incombeva un'enorme ombra informe. Non era una forma viva di carne e sangue, si trattava di un grumo di tenebra, un disturbo della vista, un mostruoso incubo partorito dalla notte, che poteva essere ritenuto la creazione di un cervello tenebrato dalla droga, se non fosse stato per i puntolini di ardente fuoco giallo che scintillavano come due occhi nell'oscurità. Inoltre, da quella massa informe proveniva una voce, un basso, subdolo, inumano bisbiglio che assomigliava più di ogni altra cosa al morbido, abominevole sibilo del serpente e che apparentemente non poteva essere emesso da labbra umane. Il suono di quella voce, così come il suo contenuto, riempiva Yasmela di un frenetico orrore, tanto insopportabile, che la giovane tremava e contorceva il suo corpo flessuoso, come se fosse sotto la sferza, come se con le convulsioni potesse liberare la mente da quella insinuante malvagità. Scritto che tu debba essere mia, principessa. Giunse il bramoso mormorio. Prima di destarmi dal mio lungo sonno ti avevo notata e desiderata, ma ero bloccato dall'antico sortilegio grazie al quale sfuggi ai miei nemici. Io sono lo spirito di Natok il Velato. Guardami bene, principessa. Presto poserai il tuo sguardo sul mio corpo materiale e mi amerai. Il sibilo spettrale si spense in una risata concupiscente e Yasmela gemette, e per il terrore batté con i piccoli pugni il pavimento di marmo. Io dormo nella sala del palazzo di Akbatana, continuò il sibilo. Là il mio corpo giace nella sua gabbia di ossa e di carne. Eppure non è altro che un guscio vuoto dal quale lo spirito è fluito per un breve periodo. Potessi tu vedere dalla finestra di quel palazzo, comprenderesti la futilità di resistermi. Il deserto è un giardino di rosse sotto la luna, dove sbocciano i fuochi di 100.000 guerrieri. Come una valanga che rotola lungo un pendio, aumentando la sua massa e la sua forza, io spazzerò via le terre dei miei antichi nemici. I loro re mi forniranno i loro teschi come calici, e le loro donne e i loro figli saranno schiavi degli schiavi dei miei schiavi. Sono divenuto potente nei lunghi anni dei miei sogni, però tu sarai la mia regina, o principessa. Ti insegnerò le antiche e dimenticate arti del piacere. Noi. Davanti al flusso di oscenità cosmiche che fuoriuscivano dal colosso d'ombra, Yasmela si ritrasse e tremò come se una frusta le avesse sferzato la delicata pelle nuda. Ricorda, mormorò l'orrore. Non passeranno molti giorni prima che venga a reclamare ciò che mi appartiene. Yasmela, premendo il volto contro il pavimento, si turò le orecchie rosee con le dita affusolate. Tuttavia le sembrò di udire uno strano fruscio, come uno sbattere di ali di pipistrello. Poi, sollevando timorosamente lo sguardo, vide solo la luna brillare attraverso la finestra, con un raggio che poggiava come una spada d'argento nel punto dove si era annidata l'ombra. Tremando in tutto il corpo, Yasmela si alzò e barcollò fino a un divanetto di raso, dove si accasciò, piangendo istericamente. Le ancelle continuavano a dormire. Una però si destò sbadigliando e stiracchiando la snella figura, e si guardò attorno assonnata. Istantaneamente si mise in ginocchio accanto al divanetto, le braccia strette attorno alla morbida vita della principessa. Era... I suoi occhi scuri erano dilatati dalla paura. Yasmela la strinse in un abbraccio convulso. Oh, Vatisa, è venuto di nuovo. L'ho visto, l'ho sentito parlare. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni fasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Lare, mi ha detto il suo nome. Natok. È Natok. Non è un incubo. Torreggiava su di me mentre le ancelle dormivano come se fossero state drogate. Cosa? Oh, cosa devo fare? Vatesa, meditando, tormentò un braccialetto d'oro che portava attorno al braccio tornito. Principessa, disse, è evidente che nessun potere mortale può batterlo e che l'amuleto che hai avuto dai sacerdoti di Ishtar è inutile. Pertanto, cerca il dimenticato oracolo di Mitra. Nonostante la sua recente paura, Yasmela rabbrividì. Gli dei di ieri diventavano i demoni di domani. I Cotiani da tempo avevano abbandonato il culto di Mitra dimenticando gli attributi dell'universale dio iboriano. Yasmela aveva una vaga idea che, essendo molto antica, quella divinità doveva essere assai terribile. Anche Ishtar era molto temuto, così come tutti gli dei di Kot. La cultura cotiana e la religione avevano sofferto della sottile influenza delle genti scemitiche e stigiane. I semplici costumi iboriani erano stati in larga parte modificati dalle sensuali, lussuriose, ma anche dispotiche usanze dell'Oriente. Mitra mi aiuterà? Yasmela strinse il polso di Vatisa per l'ansia. Abbiamo adorato Ishtar per così tanto tempo. Certo che lo farà. Vatesa era la figlia di un sacerdote ofiriano che aveva portato con sé i suoi usi quando era riparato a Coragia per sfuggire ai suoi nemici politici. Cerca il tempio. Verrò con te. Lo farò. Yasmela si alzò, ma si oppose quando Vatesa fece per vestirla. Non sta bene che mi presenti di fronte all'altare vestita di seta. Andrò nuda, in ginocchio, come si addice a un supplice, nel timore che Mitra mi accusi di mancare di umiltà. Sciocchezze! Vatesa aveva poco rispetto per gli usi di quello che considerava un falso culto. Mitra desidera avere la gente in piedi davanti a sé, non vederla strisciare sulla pancia come vermi o versare il sangue di animali sui suoi altari. Così redarguita, Yasmela permise all'ancella di abbigliarla con una leggera camicia di seta senza maniche, sulla quale venne drappeggiata una tunica, anch'essa di seta, stretta in vita da un'ampia fusciacca di velluto. Babbucce di raso le vennero calzate ai piedi flessuosi e pochi abili tocchi delle rose e dita di Vatesa le sistemarono le scure trecce ondulate. Poi la principessa seguì la ragazza, che scostò un pesante arazzo ricamato d'oro e tirò il chiavistello dorato della porta che si trovava nascosta lì dietro. Questa si aprì in uno stretto e tortuoso corridoio e le due giovani donne si avviarono rapidamente lungo di esso, superando una seconda porta e finendo in un'ampia sala. Là si trovava una guardia dall'elmetto dorato e crestato, il pettorale d'argento, gli schinieri ornati d'oro e con in mano un'ascia da battaglia dal lungo manico. Un cenno da parte di Yasmela soffocò l'esclamazione del soldato che, salutando, riprese nuovamente posizione accanto alla porta, immobile come una statua di bronzo. Le ragazze attraversarono la sala, che sembrava immensa e bizzarra alla luce delle torce lungo le alte pareti, e scesero una scalinata dove Yasmela rabbrividì di fronte alle ombre che si annidavano negli angoli delle pareti. Scesero di tre piani, fermandosi alla fine in uno stretto corridoio dal soffitto a volta tempestato di gemme, il pavimento di blocchi di cristallo e le pareti decorate da fregi dorati. Si mossero furtive lungo questo passaggio scintillante, mano nella mano, fino a un ampio portale dorato. Vatisa spalancò la porta, rivelando un tempio da tempo dimenticato, eccetto che da pochi fedeli e da nobili visitatori della corte di Coragia, per i quali veniva mantenuto aperto. Yasmela non vi era mai entrata prima, sebbene fosse nata nel palazzo. Semplice e disadorno, se confrontato con lo sfarzo dei templi di Ishtar, in esso c'era una sobrietà dovuta alla dignità e una bellezza caratteristiche della religione di Mitra. Il soffitto, alto ma non a cupola, era di semplice marmo bianco, così come le pareti e il pavimento, le prime con uno stretto fregio d'oro che le attraversava. Dietro a un altare di limpidissima giada verde, completamente privo delle macchie prodotte dai sacrifici, si trovava il piedistallo, dove sedeva la manifestazione materiale della divinità. Yasmela fissò con timore reverenziale la curva delle magnifiche spalle, i lineamenti nitidi, i grandi occhi franchi, la barba patriarcale e gli spessi riccioli dei capelli trattenuti da una semplice fascia attorno alle tempie. Questa, sebbene la principessa non lo sapesse, era arte alla sua massima espressione, la libera, indipendente espressione artistica di una razza altamente raffinata, non limitata da simbolismi convenzionali. Yasmela cadde in ginocchio e poi si prostrò, incurante degli ammonimenti di Vatesa, la quale, per buon conto, seguì l'esempio della padrona. Infatti, dopo tutto, era solo una ragazza e nel tempio di Mitra ogni cosa era grandiosa. Però, anche così, non riuscì a frenarsi dal bisbigliare nell'orecchio di Yasmela. Quella non è un'effigie del dio. Nessuno pretende di sapere quale sia il vero aspetto di Mitra. Non rappresenta altro che il dio in una forma umana idealizzata, il più vicino possibile alla perfezione che la mente umana è in grado di concepire. Lui non abita quella fredda pietra, come i tuoi sacerdoti dicono che faccia Ishtar. Mitra è ovunque, sopra e attorno a noi, e alle volte sogna nei cieli tra le stelle. Però qui si focalizza il suo essere. Pertanto, chiamalo. Cosa dovrò dirgli? Mormorò Yasmela balbettando per il terrore. Prima che tu possa parlare, Mitra conoscerà il contenuto della tua mente. Prese a dire Vatesa. Poi entrambe le ragazze trasalirono violentemente quando una voce parlò nell'aria sopra di loro. I toni profondi, calmi, simili ai rintocchi di una campana, non provenivano dall'immagine più di quanto non facessero da ogni altro punto della stanza. Nuovamente Yasmela tremò di fronte a una voce incorporea che le parlava, ma questa volta non era per l'orrore e la repulsione. Non parlare, figlia mia, perché io conosco la tua necessità. Accenti profondi giunsero come onde musicali che si frangessero ritmicamente su una spiaggia dorata. In un solo modo puoi salvare il tuo regno e con esso il mondo intero dalle zanne del serpente uscito dalle tenebre dei secoli. Vai nelle strade da sola e metti il tuo regno nelle mani del primo uomo che incontrerai. Il suono privo di echi cessò e le ragazze si fissarono reciprocamente. Poi, alzandosi, uscirono silenziosamente e non si scambiarono alcuna parola fino a quando non si trovarono nuovamente nella stanza di Yasmela. La principessa fissò il cielo fuori dalla finestra dalle sbarre dorate. La luna era tramontata. Da tempo era passata la mezzanotte. I suoni delle baldorie erano scemati nei giardini e sulle terrazze della città. Coragia dormiva sotto le stelle che sembravano riflettersi nelle fiaccole che baluginavano tra i giardini, lungo le vie e sui piatti tetti delle case dove la gente dormiva. «Cosa farai?» mormorò Vatesa tremando tutta. «Dammi il mantello!» ordinò Yasmela stringendo i denti. «Ma da sola, per strada e a quest'ora!» protestò Vatesa. «Mitra ha parlato!» replicò la principessa. «Poteva essere la voce del dio o il trucco di un sacerdote!» Non importa. Andrò. Avvolgendosi un ampio mantello di seta attorno alla snella figura e calzando un cappello di velluto dal quale pendeva un sottile velo, Yasmela attraversò frettolosamente i corridoi e giunse alla porta di bronzo dove una dozzina di lancieri la fissarono a bocca aperta mentre li superava. Quella era l'ala del palazzo che conduceva direttamente in strada. Su tutti gli altri lati, l'edificio era attorniato da ampi giardini circondati da un alto muro di cinta. Yasmela uscì nella strada illuminata da torce poste a intervalli regolari. Esitò. Poi, prima che la sua determinazione potesse vacillare, chiuse la porta dietro di sé. Un leggero tremito la scosse quando fissò entrambi i lati della strada, silenziosa e deserta. Figlia di aristocratici, non si era mai avventurata senza scorta fuori dal palazzo a Vito. Poi si fece coraggio e avanzò rapidamente lungo la via. I suoi piedi calzati di seta si muovevano leggeri sul lastricato, ma il loro morbido suono le fece salire il cuore in gola. Ne immaginò l'eco tuonare attraverso la città cavernosa, destando lacere figure dagli occhi arrossati in tane nascoste tra le fogne. Ogni ombra sembrava celare un assassino in agguato, ogni portone deserto mascherare i furtivi segugi delle tenebre. Poi Yasmela trasalì violentemente. Davanti a lei, sulla lugubre via, apparve una figura. Si ritrasse rapidamente tra le ombre che ora sembravano il miglior rifugio, con il cuore che le batteva forte. La figura si avvicinava senza il fare furtivo di un ladro o l'apprensione di un viaggiatore timoroso. avanzava lungo la strada come qualcuno che non ha bisogno o desiderio di camminare cautamente. Il suo passo ostentava una spavalderia inconsapevole e risuonava sul lastricato. Quando passò vicino a una torcia, Yasmela lo vide chiaramente. Era un uomo alto, con lo sbergo di maglia metallica di un mercenario. La principessa si fece coraggio e sbucò fuori dalle ombre, stringendosi nel mantello. Ah! La spada del mercenario lampeggiò per metà fuori dal fodero. Si fermò quando vide che la persona che aveva di fronte era semplicemente una donna, ma lanciò un rapido sguardo oltre la testa di lei, scrutando le ombre alla ricerca di possibili complici. L'uomo la fronteggiava, la mano ancora poggiata sulla lunga elsa sporgente da sotto il mantello scarlatto che gli scendeva negligentemente dalle spalle coperte d'acciaio. La luce delle torce brillava opaca sul lucido azzurro degli schinieri e del bacinetto. Un fuoco sinistro ardeva nei suoi occhi bui. A una prima occhiata, Yasmela si accorse che non si trattava di un cotiano. Quando lo sentì parlare, la giovane capì che non si trattava nemmeno di un iboriano. Era vestito come un capitano dei mercenari, e in quel corpo di disperati c'erano uomini di tutte le terre, sia barbari che stranieri civilizzati. Attorno a quel guerriero aleggiava l'aura di un lupo e lo marchiava come un barbaro. Mai gli occhi di un uomo civile, per quanto selvaggio criminale, potevano ardere di un fuoco simile. L'alito gli puzzava di vino, ma non barcollava né balbettava. «Ti hanno chiuso fuori in strada?» chiese in rozzo cotiano cercando di afferrarla. Le sue dita si chiusero lievemente attorno al polso tornito, ma Yasmela percepì che l'uomo avrebbe potuto spezzarne le ossa senza sforzo. «Vengo ora dall'ultima taverna aperta. Che star maledica questi riformatori smidollati che chiudono le osterie. Fate che gli uomini dormano piuttosto che bere, dicono. Certo, così possono lavorare e combattere meglio per i loro signori. E eunuchi senza fegato, li definisco io. Quando servivo tra i mercenari di Corinzia, gozzovigliavamo e andavamo a donne per tutta la notte e combattevamo tutto il giorno. Sicuro, il sangue scorreva lungo le scanalature delle nostre spade. Ma chi sei tu, ragazza mia? Togliti quella dannata maschera!» Yasmela evitò la sua presa con una lieve torsione del corpo, cercando di non far capire che lo stava evitando. La principessa comprese il pericolo in cui si trovava, da sola, con quel barbaro ubriaco. Se gli avesse rivelato la sua vera identità, avrebbe potuto ridere di lei o farlo allontanare, ma non era sicura che lui non le avrebbe tagliato la gola. I barbari facevano strane cose inspiegabili. Combatté con una paura crescente. «Non qui. Vieni con me.» «Dove?» Il suo indomito corpo si era scaldato, ma era anche guardingo come un lupo. «Mi stai portando nel covo di qualche rapinatore?» «No, no, lo giuro.» Ebbe difficoltà ad evitare la mano che stava nuovamente armeggiando con il suo velo. «Che il diavolo ti prenda, sgualdrina!» ringhiò l'uomo disgustato. «Sei cattiva come una donna ercaniana con quel tuo dannato velo! Qui! Fammi comunque dare un'occhiata al tuo corpo!» Prima che Yasmela potesse impedirglielo, l'uomo le strappò il mantello di dosso e la principessa udì il suo fiato sibilare tra i denti. Stava fermo con il mantello nel pugno, osservandola come se la vista dei suoi ricchi abiti l'avesse in qualche modo reso sobrio. Yasmela vide il sospetto guizzare cupo nei suoi occhi. «Chi diavolo sei?» borbottò. «Non sei una prostituta di strada, a meno che il tuo lenone non abbia derubato l'harem del re per abbigliarti.» «Non ti preoccupare.» Yasmela osò posare la sua mano candida sul massiccio braccio coperto di ferro del mercenario. «Vieni con me, leviamoci dalla strada.» L'uomo esitò. Poi si strinse nelle spalle possenti. La donna vide che era propenso a credere che fosse una nobile, la quale, stanca di raffinati amanti, stava usando quel metodo per divertirsi. Le permise di indossare nuovamente il mantello e la seguì. Con la coda dell'occhio, Yasmela lo scrutò mentre proseguivano assieme lungo la via. La cotta di maglia non era in grado di celare le sue dure linee di forza felina. Ogni cosa attorno a quell'uomo era felino, elementare e indomito. Per la giovane era alieno come lo era la giungla rispetto agli affascinanti cortigiani ai quali era avvezza. aveva paura di quell'uomo. Disse a se stessa che la cruda forza brutale e la svergognata violenza di quel barbaro la disgustavano. Eppure sentiva dentro di sé che qualcosa di affascinante e pericoloso la faceva propendere verso di lui. La corda primitiva nascosta che si annida nell'animo di ogni donna era stata toccata e rispondeva. Aveva provato la mano rude dell'uomo sul suo braccio e qualcosa di profondo in lei era scattato al ricordo di quel contatto. Molti uomini si erano inginocchiati prima d'allora davanti a Yasmela. Qui invece c'era un uomo che lei sentiva non si sarebbe mai inginocchiato di fronte a nessuno. Le sue sensazioni erano quelle di qualcuno che porta a spasso una tigre incatenata. Era spaventata e allo stesso tempo affascinata dal suo timore. Yasmela si fermò di fronte alla porta del palazzo e la spinse leggermente. Fissando furtivamente il suo compagno, la principessa non vide il sospetto nei suoi occhi. «Un palazzo, eh?» bofonchiò l'uomo. «Così sei una cameriera?» Yasmela si trovò a meditare, con una strana gelosia, se qualcuna delle sue serve avesse mai condotto quell'aquila nel suo palazzo. Le guardie non fecero alcun segno quando fece passare il mercenario in mezzo a loro, ma l'uomo le scrutò come un cane feroce può fissare uno strano branco. Yasmela lo condusse attraverso una porta celata da un drappeggio fino a una stanza interna dove si fermò, controllando ingenuamente gli arazzi. Fino a quando non vide una brocca di cristallo colma di vino su un tavolo d'ebano. Il barbaro la prese con un sospiro di gratitudine, portandosela alle labbra. Vatesa in quel momento entrò da una stanza interna, strillando senza fiato. «Principessa!» «Principessa!» La brocca di vino si schiantò sul pavimento. Con un gesto troppo rapido perché l'occhio potesse coglierlo, il mercenario strappò il velo di Yasmela e la fissò. L'uomo si ritrasse con un'imprecazione e la spada gli balzò nelle mani con un lampo di acciaio azzurro. I suoi occhi si infiammarono come quelli di una tigre in trappola. L'aria era carica di tensione, simile alla paura che precede lo scoppio di una tempesta. Vatesa si accasciò al suolo, resa muta dal terrore. Ma Yasmela fronteggiò il barbaro infuriato senza un tremito. Aveva compreso che la sua stessa vita era in gioco. Reso furioso dal sospetto e da un panico irragionevole, l'uomo era pronto a dispensare la morte alla minima provocazione. Ma la principessa provò una certa euforia alla vista di quella crisi. «Non avere paura», disse lei. «Perché mi hai condotto fin qui?» ringhiò il mercenario, i cui occhi fiammeggianti scrutavano ogni angolo della stanza. «Che razza di trappola è questa?» «Non c'è alcuna trappola», rispose la donna. «Ti ho portato qui perché mi puoi aiutare. Ho invocato gli dei, Mitra, e lui mi ha ordinato di andare per strada e di chiedere aiuto al primo uomo che avessi incontrato». Quella era una cosa che il mercenario riusciva a comprendere. I barbari avevano i loro oracoli. Abbassò la spada, sebbene non la rimettesse nel fodero. «Bene, se sei Yasmela, hai davvero bisogno di aiuto», grugnì lui. «Il tuo regno è in un guaio infernale. Però come posso aiutarti? Se desideri che tagli una gola, certamente». «Siediti», ordinò la principessa. «Vatesa, portagli del vino». Il barbaro obbedì, avendo cura, notò Yasmela, di sedere con la schiena rivolta verso un solido muro da dove poteva osservare l'intera camera. Appoggiò la spada sguainata sulle ginocchia. Yasmela la fissò affascinata. L'opaco scintillio azzurro dell'arma sembrava riflettere storie di massacri e di violenze. La donna dubitava di essere in grado di sollevarla, eppure sapeva che il mercenario era in grado di maneggiarla con una sola mano altrettanto facilmente di come lei poteva fare con un frustino da cavallo. Notò l'ampiezza e la forza delle sue mani. Non erano le tozze e grossolane zampacce di un troglodita. Trasalendo colpevolmente, si sorprese ad immaginare quelle forti dita che passavano tra i suoi capelli scuri. L'uomo sembrò rilassarsi quando lei si accomodò su un divano di fronte. Si levò l'elmo, lo appoggiò sul tavolo e tirò indietro il cappuccio della cotta, lasciando le pieghe della maglia metallica drappeggiarsi sulle spalle massicce. Yasmela poté osservare più minutamente la diversità di quell'uomo dalla razza iboriana. Nel volto oscuro, solcato da cicatrici, si leggeva un accenno di imprevedibilità e, senza essere segnato dalla depravazione, o peggio, dalla malvagità, aveva nell'aspetto ben più che qualcosa di sinistro, messo in evidenza dagli ardenti occhi azzurri. La fronte bassa e ampia era sormontata da una chioma squadrata e arruffata, nera come le ali di un corvo. «Chi sei?» gli chiese bruscamente. «Conan, un capitano dei lancieri mercenari», rispose lui vuotando la coppa di vino con un unico sorso e allungandola per averne dell'altro. «Sono nato in Cimmeria». Il nome le diceva poco. Sapeva solo vagamente che si trattava di un paese montuoso, selvaggio e aspro, che si trovava lontano, nel nord, oltre l'ultimo avamposto delle nazioni iboriane, ed era abitato da una razza feroce e lunatica. Non ne aveva mai visto uno prima d'allora. Appoggiando il mento tra le mani, Yasmela lo fissò con i profondi occhi scuri che avevano incatenato più di un cuore. «Conan di Cimmeria», disse. «Hai detto che avevo bisogno di aiuto. Perché?» «Beh», rispose lui, «chiunque può capirlo. Il re tuo fratello si trova in una prigione di Ophir. Poi c'è Kot che complotta per sottomettervi. C'è quello stregone che strilla di morte e distruzione a Shem. E quel che è peggio, ci sono i tuoi soldati che ogni giorno disertano». Yasmela non replicò immediatamente. Per lei era un'esperienza nuova che un uomo le parlasse così francamente, che le sue parole non si adagiassero su frasi di cortesia. «Perché i miei soldati disertano, Conan?» chiese. «Alcuni sono assoldati da Kot», replicò lui versandosi con soddisfazione dell'altro vino. «Molti pensano che Coragia come nazione indipendente sia finita. Molti sono spaventati dalle storie che circolano su questo cane di Natok». «I mercenari rimarranno?» gli chiese ansiosamente. «Fin tanto che ci pagherai bene», rispose lui francamente. «Per noi le vostre beghe politiche non significano nulla. Puoi fidarti di Amalric, il nostro generale, ma il resto di noi è composto da uomini semplici che amano il bottino. Se verserà il riscatto che chiede Ophir, gli uomini dicono che non sarà in grado di pagarci. In tal caso potremmo passare al servizio del re di Kot, sebbene quel maledetto miserabile non sia mio amico. Oppure potremmo saccheggiare questa città. In una guerra civile il bottino è sempre abbondante». «Perché non passate al servizio di Natok?» chiese. «Con che cosa ci potrebbe pagare?» sbuffò Conan. «Con panciuti idoli di bronzo presi dalle città scemite? Fin tanto che combatterai contro Natok, puoi fidarti di noi». «I tuoi compagni ti seguiranno?» gli chiese bruscamente. «Cosa vuoi dire?» «Voglio dire che sto per farti comandante dell'esercito di Coragia». Conan rimase di stucco, con il calice poggiato alle labbra che si curvarono in un ampio ghigno. I suoi occhi si illuminarono di una nuova luce. «Comandante? Per Crom, cosa diranno i tuoi nobili imbellettati?» «Mi obbediranno». Batté le mani per chiamare uno schiavo che entrò inchinandosi profondamente. «Fai venire qui immediatamente il conte Tespides e il cancelliere Taurus, Lord Amalric e l'Aga Shupras. Io ripongo la mia fiducia in Mitra», disse Yasmela posando lo sguardo su Conan, che ora stava divorando il cibo che gli era stato messo davanti dalla tremante Vatesa. «Hai combattuto molte guerre?» «Sono nato nel mezzo di una battaglia», rispose il cimmero strappando un boccone di carne da un pezzo enorme con i suoi forti denti. «Il primo suono che udirono le mie orecchie fu il clangore delle spade e le grida del massacro. Ho combattuto in faide sanguinose, guerre tribali e in vere e proprie campagne». «Però sei in grado di condurre gli uomini e di schierarli per la battaglia?» «Beh, ci posso provare», replicò lui imperturbabile. «Non è altro che un duello su scala maggiore. Superi la sua guardia e poi... stoccata, fendente! Ed è la sua testa a volare via o la tua?» Lo schiavo entrò nuovamente, annunciando l'arrivo degli uomini che erano stati mandati a chiamare. E Yasmela andò nell'altra stanza, tirando il tendaggio di velluto dietro di sé. I nobili si misero in ginocchio, evidentemente sorpresi per quella convocazione a un'ora simile. «Vi ho mandati a chiamare per farvi conoscere la mia decisione», disse Yasmela. «Il regno è in pericolo». «Avete ragione, mia principessa!» A parlare era stato il conte Tespides, un uomo alto, i cui riccioli neri erano impomatati e profumati. Con una mano candida si lisciò i lunghi baffi, mentre nell'altra reggeva un berretto di velluto dalla piuma scarlatta, fissata da un fermaglio d'oro. Le sue scarpe a punta erano di raso e il suo giustacuore di velluto ricamato in oro. I suoi modi erano leggermente affettati, ma i muscoli sotto le sete erano d'acciaio. «Sarebbe meglio offrire a Ofir più oro per il rilascio del vostro regale, fratello!» «Sono fermamente contrario!» si intromise il cancelliere Taurus, un uomo di una certa età dalla veste bordata d'ermellino, i cui lineamenti erano segnati dalle preoccupazioni del lungo servizio. «Abbiamo già offerto una cifra che rovinerebbe il regno! Offrire di più non farebbe altro che aumentare ulteriormente la cupidigia di Ofir!» «Mia principessa, dico ciò che ho già affermato in precedenza! Ofir non si muoverà fin tanto che non avremo affrontato quest'orda di invasori! Se perdiamo, darà Recossus a Kot! Se vinciamo, senza dubbio ci restituirà il nostro sovrano dopo il pagamento del riscatto!» «E nel frattempo!» si intromise Amalric. «I soldati disertano ogni giorno di più e i mercenari sono inquieti e si chiedono perché si chiamo!» Era un nemediano, un omone dalla capigliatura fulva come quella di un leone. «Dobbiamo muoverci rapidamente, altrimenti...» «Domani marceremo verso sud», rispose la principessa. «E là c'è l'uomo che vi guiderà». Scostando di lato il tendaggio di velluto, Yasmela indicò con un gesto teatrale il cimmero. Forse non scelse il momento migliore per mostrarlo. Conan era stravaccato sulla sedia, i piedi poggiati sul tavolo d'ebano, impegnato profondamente a masticare un osso che stringeva saldamente con entrambe le mani. Fissò distrattatamente i nobili attoniti, sorrise debolmente ad Amalric e continuò a masticare con evidente soddisfazione. «Che Mitra ci protegga!» esclamò Amalric. «Quello è Conan, il nordico, il più turbolento di tutti i mascalzoni! L'avrei fatto impiccare da tempo ormai, se non fosse il miglior spadaccino che abbia mai indossato un usbergo! Vostra Altezza si diletta di scherzi!» strillò Tespides, i cui lineamenti aristocratici si erano incupiti. «Quell'uomo è un selvaggio, un tizio privo di cultura e di lignaggio! È un insulto chiedere a dei gentiluomini di servire sotto di lui, io!» «Conte Tespides!» disse Yasmela. «Voi portate il mio guanto sotto la vostra bandoliera. Per cortesia, ridatemelo e poi andatevene!» «Andarmene?» strillò il conte stupito. «Andare dove?» «A Kot o all'inferno», rispose Yasmela. «Se non mi volete servire come io desidero, non mi servirete affatto.» «Mi fraintendete, principessa», rispose il conte inchinandosi, profondamente ferito. «Non vi tradirò. Per voi metterò la mia spada persino a disposizione di quel selvaggio.» «E voi, mio signore Amalric?» Amalric imprecò sottovoce. Poi sorrise forzatamente. Era un vero soldato di ventura. Nessun cambiamento della fortuna, per quanto oltraggioso, lo poteva sorprendere molto. «Servirò sotto di lui. Una vita breve e allegra, dico io, e con Conan il tagliagole come comandante è facile che la vita sia allegra e breve. Per Mitra, se quel cane ha mai comandato prima d'ora una compagnia di tagliagole, me lo mangio intero, corazza compresa!» «E voi, mio aga?» chiese Yasmela rivolgendosi a Shupras. Questi fece spallucce con fare rassegnato. Era un tipico esponente della sua gente, evolutasi lungo i confini meridionali di Kot. Alto e magro, aveva i lineamenti più marcati e affilati di quelli dei suoi affini che vivevano nel deserto. «Ishtar da, principessa!» Il fatalismo dei suoi antenati parlò per lui. «Attendete qui!» ordinò lei. E mentre Tespides fumava e mordicchiava il suo berretto di velluto, Taurus borbottava stancamente a bassa voce e Amalric passeggiava avanti e indietro nervosamente, lisciandosi la barba fulva e digrignando i denti come un leone affamato, Yasmela sparì nuovamente oltre i tendaggi e batté le mani per chiamare i suoi schiavi. Al suo comando portarono una corazza che sostituisse la cotta di maglia di Conan. C'erano una gorgiera, l'elmetto, un pettorale, le ginocchiere e gli schinieri. Quando Yasmela tirò nuovamente i tendaggi, un Conan ricoperto di acciaio brunito si presentò davanti al suo pubblico. Con indosso l'armatura di piastre, la visiera sollevata e il volto scuro messo in ombra dalle piume nere che ondeggiavano sulla cima dell'elmetto, attorno alla sua figura si respirava un'aura cupa che persino Tespides notò, anche se a malincuore. Una risata morì improvvisamente sulle labbra di Amalric. Per Mitra! Non mi sarei mai aspettato di vederti in armatura completa, ma le rendi proprio giustizia. Per le ossa della mia mano, Conan, ho visto dei re che indossavano la loro armatura in maniera meno regale di te. Conan era silenzioso. Una vaga ombra gli attraversò la mente come una profezia. Negli anni a venire avrebbe ricordato le parole di Amalric, quando il sogno sarebbe divenuto realtà. Tre. Nella prima foschia dell'alba, le strade di Coragia erano affollate dalla gente che osservava le schiere uscire dal cancello meridionale. L'esercito finalmente si muoveva. C'erano i cavalieri, scintillanti nelle loro armature riccamente ornate, le piume colorate svettanti sopra gli elmi bruniti. I loro destrieri, bardati di sete, cuoio laccato e fibbie dorate, caracollavano e si impennavano quando i loro cavalieri li mettevano al passo. La prima luce traeva cupi bagliori dalle punte delle lance che si levavano come una foresta sopra il tumulto, con gli stendardi che garrivano nella brezza. Ciascun cavaliere portava il pegno di una dama, un guanto, una sciarpa, una rosa legata all'elmo o assicurata al cinturone della spada. Erano i cavalieri di Coragia, 500, guidati dal conte Tespides, il quale, dicevano gli uomini, aspirava alla mano della principessa Yasmela in persona. Erano seguiti dalla cavalleria leggera che montava destrieri meno massicci. I cavalieri erano tipici montanari, smilzi e dai visi affilati. Portavano sul capo appuntiti zuccotti di metallo e la cotta di maglia brillava sotto i loro fluttuanti caftani. La loro arma più importante era il terribile arco scemita, capace di scagliare una freccia a 500 passi. Erano 5.000 e Shupras cavalcava alla loro testa, il suo viso scarno corrucciato sotto l'elmetto a punta. Seguivano i lancieri di Coragia, sempre relativamente pochi, in qualunque stato iboriano, dove gli uomini ritenevano la cavalleria l'unica disciplina militare onorevole. Questi, come i cavalieri, erano di antico sangue cotiano, figli di famiglie rovinate, uomini diseredati, giovani squattrinati che non potevano permettersi un cavallo e l'armatura. Erano 500. I mercenari formavano la retroguardia con 1.000 cavalieri e 2.000 lancieri. Gli alti destrieri dei cavalieri sembravano duri e selvaggi come chi li montava. Non eseguivano alcuna giravolta o salto. C'era un cupo aspetto professionale che circondava quegli assassini di mestiere, veterani di sanguinose campagne. Vestiti dalla testa ai piedi di cotte di maglia, portavano elmetti privi di visiera sopra le cuffie metalliche. I loro scudi erano disadorni e le loro lunghe lance prive di guidoni. Dalle loro selle pendevano asce da battaglia o mazze ferrate e ogni uomo portava al fianco una lunga spada. I lancieri erano armati in maniera molto simile, sebbene avessero picche al posto delle lance. Erano uomini di molte razze e dai crimini svariati. C'erano alti perboreani, magri, dalle grandi ossa, dal parlare lento e dalla natura violenta. Fulvi gundariani delle colline del nord-ovest, spavaldi corintiani rinnegati, scuri zingarani dai frementi baffi neri e dal temperamento feroce, aquiloniani dal lontano occidente. Però tutti, tranne gli zingarani, erano iboriani. Dietro di loro, preceduto da un cavaliere su un enorme cavallo da guerra e circondato da un manipolo di soldati scelti della Guardia Reale, giunse un cammello dalla ricca bardatura. Lo cavalcava sotto il baldacchino di seta una snella figura vestita di seta, alla vista della quale la popolazione, sempre memore della regalità, gettò in aria i cappelli ed esultò selvaggiamente. Conan il Cimmero, inquieto nella sua armatura di piastre, fissò il cammello addobbato senza grande approvazione e si rivolse ad Amalric, che cavalcava accanto a lui, risplendente nella sua cotta di maglia decorata d'oro con il pettorale dorato e l'elmo dalla fluente cresta di crini di cavallo. La principessa ha voluto venire con noi, è coraggiosa, ma troppo delicata per queste cose. Comunque dovrà togliersi quelle vesti. Amalric tormentò il baffo fulvo per celare un ghigno. Evidentemente Conan supponeva che Yasmela intendesse impugnare una spada e prendere parte a un vero combattimento, come spesso facevano le donne barbare. «Le donne degli iperboreani non combattono come le tue donne cimmere, Conan!» disse. «Yasmela cavalca con noi per osservare la battaglia! Comunque...» si sporse dalla sella e abbassò il tono di voce. «Detto tra noi, ho idea che la principessa non abbia il coraggio di rimanere qui. Teme qualcosa.» «Una rivolta. Forse sarebbe meglio impiccare qualche cittadino prima di andarcene.» «No, una delle sue serve ha parlato balbettando di qualcosa che viene a palazzo di notte e che ha terrorizzato follemente Yasmela. Senza dubbio è qualcuna delle diavolerie di Natok. Conan, ciò che andiamo a combattere è qualcosa di più che carne e sangue.» «Bene», grugnì il cimmero. «Meglio andare incontro a un nemico che attenderlo.» Osservò la lunga fila di carri e di uomini al seguito dell'esercito. Raccolse le redini nella mano coperta d'acciaio e pronunciò per abitudine la frase dei mercenari in marcia. «Bottino o morte, compagni! In marcia!» Le pesanti porte di Coragia si chiusero dietro la lunga carovana. Teste ansiose si allinearono sui bastioni. I cittadini sapevano bene che stavano osservando la partenza della vita o della morte. Se l'esercito fosse stato sconfitto, il futuro di Coragia sarebbe stato scritto con il sangue. Nelle orde che chiamavano dal selvaggio sud, la pietà era una qualità sconosciuta. La colonna marciò per tutto il giorno, attraverso ondulate pianure erbose solcate da piccoli fiumi, mentre il terreno iniziava gradatamente a innalzarsi. Davanti a loro si scorgeva una catena di basse colline, estese come un ininterrotto muraglione da ovest a est. Quella notte si accamparono sui pendii settentrionali di quelle colline e gli uomini, dai nasi adunchi e gli occhi feroci delle tribù della zona, vennero in gran numero per accoccolarsi attorno ai fuochi e ripetere le notizie che erano giunte dal misterioso deserto. In tutte le loro storie, il nome di Natok era ripetuto come quello di un serpente strisciante. A un suo ordine, i demoni dell'aria portavano tuoni, vento e nebbia, e i diavoli degli inferi scuotevano la terra e consumavano con il fuoco i cancelli delle città fortificate, facendo ardere gli uomini armati fino a renderli mucchi di ossa calcinate. I suoi guerrieri coprivano il deserto con il loro numero ed aveva 5.000 soldati stigiani con carri da guerra sotto il comando del principe ribelle Cutamun. Conan ascoltò imperturbabile. La guerra era il suo mestiere, la vita una battaglia continua. Anzi, una serie di battaglie. Fin dalla sua nascita, la morte era stata una compagna costante. Camminava orribilmente al suo fianco, stava alle sue spalle al tavolo da gioco. Le sue dita scheletriche tamburellavano con i calici di vino. Torreggiava sopra Conan, un'ombra incappucciata e mostruosa, quando dormiva. Conan si curava della sua presenza non più di quanto un re faccia con il suo coppiere. Un giorno o l'altro la sua presa scheletrica si sarebbe chiusa. Questo era quanto. Era sufficiente che il cimmero vivesse nel presente. Tuttavia, altri erano meno immuni alla paura di lui. Ritornando dalla linea delle sentinelle, Conan si fermò quando una snella figura, avvolta in un mantello, lo fermò con la mano distesa. «Principessa, dovresti essere nella tua tenda!» «Non riesco a dormire.» I suoi occhi scuri erano spiritati. «Conan, ho paura.» «Ci sono uomini nell'esercito che temi!» Le sue mani si strinsero sull'Elsa. «Nessun uomo.» Rabbrividì la donna. «Conan, c'è qualcosa di cui hai paura?» Il cimmero pensò, sfregandosi il mento. «Sì», ammise alla fine. «La maledizione degli dèi.» Yasmela rabbrividì nuovamente. «Sono maledetta. Un demone degli abissi ha messo il suo marchio su di me. Notte dopo notte si cela nelle ombre mormorandomi segreti orribili. Mi trascinerà negli inferi per essere la sua regina. Non oso dormire. Lui verrà da me nella mia tenda, così come è entrato nel palazzo. Conan, tu sei forte. Fammi stare con te. Ho paura.» Non era più una principessa, ma solo una ragazza terrorizzata. Il suo orgoglio le era scivolato via, lasciandola impudica nella sua nudità. Nella sua folle paura era venuta da lui che sembrava il più forte. Il suo brutale potere, che l'aveva respinta, ora l'attirava. Come risposta, Conan si tolse il mantello scarlatto e lo avvolse rozzamente intorno alla principessa, come se qualunque tipo di tenerezza gli fosse impossibile. La sua mano di ferro si posò per un istante sulla spalla minuta di Yasmela e la donna rabbrividì nuovamente, ma non di paura. Come una scossa elettrica, una vampata di vitalità animale la percorse al semplice tocco, come se le fosse stata trasmessa parte della sovrabbondante forza del barbaro. «Mettiti là!» Conan le indicò uno spazio pulito vicino a un piccolo fuoco scoppiettante. Il cimmero non vide alcuna incongruenza in una principessa distesa sulla nuda terra accanto a un fuoco da campo e avvolta dal mantello di un guerriero. Però lei obbedì senza protestare. Conan si sedette vicino a lei su un masso, la spada sulle ginocchia. Con la luce del fuoco che si rifletteva sull'armatura di acciaio azzurro, il barbaro sembrava un'immagine di ferro, una potenza dinamica nel momento quiescente. Non a riposo, ma immota per il momento, in attesa del segnale per attivarsi nuovamente in azioni terribili. La luce del fuoco giocava con i suoi lineamenti, facendoli sembrare intagliati in una sostanza incorporea, eppure solida come l'acciaio. I suoi occhi erano immobili, ma ardevano di una vitalità feroce. Non era semplicemente un selvaggio, era parte della natura, tutt'uno con gli indomabili elementi della vita. Nelle sue vene scorreva il sangue dei lupi, nel suo cervello erano in agguato le profondità della notte nordica. Il suo cuore pulsava con il fuoco della foresta in fiamme. Così, metà meditando, metà sognando, Yasmela cadde addormentata, avvolta da un senso di deliziosa sicurezza. In qualche modo lei sapeva che nessuna ombra dagli occhi fiammeggianti si sarebbe chinata su di lei nell'oscurità, se quella cupa figura dalle terre barbariche vegliava su di lei. Però si destò nuovamente per rabbrividire di terrore cosmico, sebbene non a causa di qualcosa che aveva visto. Ciò che la destò fu un basso mormorio di voci. Aprendo gli occhi, vide che il fuoco era basso. Nell'aria si percepiva l'alba. Riuscì a malapena a vedere Conan seduto ancora sul macigno e colse il lungo scintillio azzurro della sua lama. Accanto a lui era accovacciata una seconda figura sulla quale il fuoco morente gettava un debole bagliore. Yasmela, assonnata, distinse un naso adunco e il nero lucido di un occhio sotto il turbante bianco. L'uomo stava parlando rapidamente in un dialetto scemita che trovava difficile da comprendere. «Che belle mi faccia marcire il braccio! Dico la verità! Perder cheto, Conan! Sono sì un principe dei bugiardi, ma non mento a un vecchio compagno! Lo giuro sui giorni in cui eravamo una coppia di ladri a Zamora, prima che indossassi l'armatura! Ho visto Natok! Con gli altri mi inginocchiai davanti a lui quando compì gli incantesimi in un'ora di Set! Però non ficcai il naso nella sabbia come fecero gli altri! Io sono un ladro di Shumir e la mia vista è più acuta di quello di un furetto! L'ho aguzzata bene e vidi il suo velo sollevato dal vento! Si scostò e lo vidi, che bel mi aiuti, Conan! Ti dico che lo vidi! Si gelò il sangue nelle vene e mi si drizzarono i capelli. Ciò che vidi bruciò la mia anima come un ferro rovente. Non sarei riuscito a riposare finché non ne fossi stato certo. Mi diressi fino alle rovine di Kutkemes. La porta della cupola d'avorio era aperta. All'ingresso giaceva un enorme serpente trafitto da una spada. All'interno della cupola giaceva il corpo di un uomo, così avvizzito e contorto che all'inizio non riuscii a riconoscerlo. Si trattava di Shevatas, lo Zamurano, l'unico ladro al mondo che riconoscevo più abile di me. Il tesoro era intatto, stava in cumuli scintillanti attorno al cadavere. Questo è tutto. Non c'erano ossa, iniziò Conan. Non c'era nulla, lo interruppe lo scemita accalorato. Nulla! Solo quel cadavere! Il silenzio regnò per un istante e Yasmela si ritrasse, colta da uno strisciante orrore innominabile. Da dove viene Natok? Si levò il vibrante sussurro dello scemita. Dal deserto! Una notte, quando il mondo era cieco e sferzato da folli nubi spinte in un volo frenetico nel cielo tremante, e l'ululato del vento era mescolato allo strepito degli spiriti del deserto. Quella notte si aggiravano i vampiri, le streghe cavalcavano nude nel vento e i lupi mannari ululavano in tutti i luoghi selvaggi. Giunse su un cammello nero, cavalcando come il vento, e un fuoco maledetto lo circondava, mentre le impronte del cammello brillavano nell'oscurità. Quando Natok smontò davanti al tempio di Set, nell'oasi di Afaka, l'animale fuggì nelle tenebre e svanì. Ho parlato con uomini di tribù che giurano che all'improvviso la bestia spiegò le enormi ali e si levò in volo verso il cielo, lasciando una scia di fuoco dietro di sé. Da quella notte nessun uomo ha mai più visto quel cammello, ma una deforme figura nera e antropomorfa barcollò fino alla tenda di Natok e gli parla nell'oscurità che precede l'alba. Ti dico, Conan, che Natok è... Guarda, ti mostrerò un'immagine di ciò che vidi quel giorno a Shushan, quando il vento scostò il velo. Yasmela vide il luccichio d'oro nella mano dello scemita, quando i due uomini si chinarono sopra qualcosa. Poi udì Conan grugnire, e improvvisamente la tenebra avvolse la giovane donna. Per la prima volta nella sua vita, la principessa Yasmela era svenuta. L'alba era ancora un accenno di bianco verso oriente quando l'esercito si mise nuovamente in marcia. Gli uomini delle tribù erano venuti in corsa al campo con i loro destrieri schiumanti per la lunga cavalcata per riferire che l'orda del deserto era accampata al pozzo di Altaku. Così i soldati attraversarono rapidamente le colline, lasciando indietro i carri delle salmerie. Yasmela cavalcava con i primi e i suoi occhi erano spiritati. L'orrore innominabile aveva assunto una forma ancora più terribile da quando aveva riconosciuto la moneta nella mano dello scemita la notte precedente. Una di quelle segretamente coniate dal depravato culto Zuagita, che riportava il profilo di un uomo morto da 3.000 anni. La strada si snodava tra creste frastagliate e ripidi crepacci torreggianti su strette valli. Qua e là spuntavano dei villaggi, grappoli di capanne di pietra cementate con il fango. I montanari sciamavano per unirsi ai loro fratelli, così che prima ancora di aver terminato l'attraversamento delle colline, l'esercito era aumentato di circa 3.000 arcieri selvaggi. Improvvisamente la moltitudine emerse dalle colline e trattenne il fiato di fronte all'enorme distesa che si apriva verso sud. Sul lato meridionale le colline scendevano ripide, producendo una netta divisione geografica tra gli altipiani cotiani e il deserto meridionale. Le colline erano il margine dell'altopiano, che si estendeva in una muraglia praticamente ininterrotta. Da questo lato erano spoglie desolate, abitate solamente dal clan Zahemi, il cui compito era di sorvegliare la via carovaniera. Oltre le colline, il deserto si apriva nudo, polveroso e senza vita. Però, oltre l'orizzonte, si trovava il pozzo di Altaku e l'orda di Natok. L'esercito osservò il passo di Shamala, attraverso il quale scorreva la ricchezza del nord e del sud, e attraverso il quale avevano marciato le armate di Kot, Koraja, Shem, Turan e Stigia. Qui la ripida parete del bastione era spezzata. I promontori si spingevano fino nel deserto, formando valli desolate, tutte tranne una chiuse sul lato settentrionale da scabre pareti. Quell'unica valle era il passo. Era simile a una grande mano distesa dalle colline. Due dita, separate, formavano una valle a forma di ventaglio. Le dita erano rappresentate da un'ampia cresta su ciascun lato, le pareti esterne ripide, quelle interne inclinate. La valle diventava sempre più ripida verso l'alto mentre si restringeva, terminando in un plateau fiancheggiato da pareti aguzze. Là si trovava un pozzo e un grappolo di torri di pietra occupate dagli Zahemiani. Lì Conan si fermò, volteggiando giù dal cavallo. Aveva sostituito la corazza di piastre con la più familiare cotta di maglia. Tespides tirò le redini e domandò: «Perché ti fermi?» «Li aspetteremo qui», rispose Conan. «Sarebbe più cavalleresco uscire allo scoperto e incontrarli», sbottò il conte. «Ci soffocherebbero con il loro numero», rispose il cimmero. «Inoltre non c'è acqua laggiù, ci accamperemo sul plateau». «I miei cavalieri e io ci accamperemo nella valle!» replicò rabbiosamente Tespides. «Siamo l'avanguardia e noi almeno non temiamo uno sciame di straccioni del deserto!» Conan alzò le spalle e l'irato nobile si allontanò. Amalric fece fermare con un ordine possente le sue schiere per osservare la rutilante compagnia scendere il pendio fino alla valle. «Che sciocchi! Le loro borracce saranno presto vuote e dovranno tornare indietro fino al pozzo per abbeverare i cavalli!» «Lasciali andare!» replicò Conan. «Non gli va giù di prendere ordini da me! Di a quei cani dei tuoi uomini di levarsi le armature e di riposare! Abbiamo marciato a lungo e in fretta! Fai abbeverare i cavalli e lascia mangiare gli uomini!» Non sembrava esserci bisogno di mandare degli esploratori. Il deserto si presentava vuoto alla vista, sebbene proprio in quel momento la visuale fosse limitata dalle basse nubi ferme in masse biancastre all'orizzonte meridionale. La monotonia era spezzata solo da una sporgenza informe di rovine di pietra, alcune miglia all'interno del deserto, ritenute i resti di un antico tempio stigiano. Conan fece smontare gli arcieri e li dispose lungo la cresta insieme ai selvaggi montanari. Posizionò i mercenari e i lancieri di Coragia sul plateau attorno al pozzo. Più indietro, nell'angolo dove la strada della collina sfociava nel plateau, venne issata la tenda di Yasmela. Senza nemici in vista, i guerrieri si rilassarono. Vennero levati i bacinetti, le cuffie metalliche gettate sulle spalle coperte dalla cotta, slacciate le cinture. Battute oscene si intrecciarono mentre i combattenti divoravano carne e ficcavano i loro musi nei boccali di birra. Lungo quei pendii i montanari si trovavano a loro agio, sbocconcellando datteri e olive. Amalric venne dove Conan stava seduto a capo scoperto su una roccia. «Conan, hai sentito ciò che dicono i montanari riguardo a Natok? Dicono, per Mitra, è troppo assurdo persino per ripeterlo. Cosa ne pensi?» «A volte i semi riposano nella terra per secoli senza marcire», rispose Conan. «Però sicuramente Natok è un uomo». «Non ne sono sicuro», bofonchiò Amalric. «Comunque hai disposto l'esercito come avrebbe fatto un esperto generale. È certo che i diavoli di Natok non potranno assalirci di sorpresa». «Per Mitra, che nebbia!» «All'inizio ho creduto che si trattasse di nubi», rispose Conan. «Guarda come avanza». Quelle che sembravano nubi erano una spessa nebbia che si muoveva verso nord come un grande oceano instabile, celando rapidamente il deserto alla vista. Ben presto inghiottì le rovine stigiane e continuò a muovere in avanti. L'esercito osservava con stupore. Era una cosa senza precedenti, innaturale e inspiegabile. «Non serve mandare gli esploratori», disse Amalric disgustato. «Non potrebbero vedere nulla! La nebbia è vicina alle frange esterne della valle. Ben presto l'intero passo e le colline saranno celate!» Conan, che aveva osservato la nebbia avanzante con crescente nervosismo, si chinò improvvisamente e poggiò l'orecchio sul terreno. Si alzò in preda a un'agitazione frenetica, imprecando. «Cavalli e carri, a migliaia! La terra vibra sotto i loro passi! A me!» La sua voce tuonò per tutta la valle, elettrizzando gli uomini inattivi. «Borgognotte, picche, cani! Assumete la formazione!» A quell'ordine, mentre gli uomini si disponevano nei ranghi, indossando rapidamente gli elmetti e infilando le braccia attraverso le cinghie degli scudi, la nebbia si dissolse come qualcosa che non era più utile. Non svanì sollevandosi lentamente come nebbia naturale, semplicemente svanì come una fiamma spenta. Un momento prima il deserto era celato dall'avanzante coltre sfilacciata, impalata come una montagna strato dopo strato. L'istante successivo il sole brillava da un cielo limpido su un deserto spoglio, ma non più inanimato, bensì affollato dall'ostentazione vivente della guerra. Un gran rumore scosse le colline. Alla prima occhiata, agli attoniti spettatori parve di osservare uno scintillante e luccicante mare di bronzo e di oro, dove le punte d'acciaio brillavano come una miriade di stelle. Alzatasi la nebbia, gli invasori si erano fermati come se si fossero congelati in lunghe file serrate, fiammeggianti sotto il sole. La prima linea era formata dai carri da guerra tirati dai grandi e selvaggi cavalli della Stigia, dalle teste ornate di piume, che sbuffavano e si impennavano quando ogni auriga nudo tirava le redini allargando le possenti gambe, le braccia scure guizzanti di muscoli. I guerrieri nei carri da guerra erano alte figure, i cui visi affilati erano messi in risalto dagli elmetti di bronzo, sormontati da una cresta rappresentante una mezza luna che sosteneva una sfera dorata. Nelle mani stringevano pesanti archi, non erano arcieri comuni, ma nobili del sud addestrati alla guerra e alla caccia, avvezzi ad abbattere i leoni con le loro frecce. Dietro di questi veniva una variopinta moltitudine di selvaggi su cavalli solo parzialmente domati. Erano color ebano lucente, snelli e scattanti, e cavalcavano completamente nudi e senza sella o briglie. Dopo di questi avanzava un'orda che sembrava riempire tutto il deserto. Migliaia e migliaia di belluini figli di Shem, schiere di cavalieri dai corsaletti di cotta di scaglie e dagli elmi cilindrici. Erano gli Assuri di Nippur, Shumir, Eruk e le loro città sorelle, selvagge orde di uomini vestiti di bianco dei clan nomadi. A quel punto le schiere incominciarono a volteggiare e a ondeggiare. I carri da guerra si spostarono di lato, mentre il corpo principale si muoveva incerto in avanti. Giù nella valle, i cavalieri di Coraja erano montati a cavallo, e ora il conte Tespides stava galoppando su per il pendio dove si trovava Conan. Non si degnò neppure di smontare, ma parlò bruscamente dalla sella. «Il sollevarsi della nebbia li ha confusi! Il momento per caricare è adesso! I cusciti non hanno archi e copriranno l'intera avanzata! Una carica dei miei cavalieri li schiaccerà, spingendoli addosso alle file degli scemiti, distruggendo così la loro formazione! Seguitemi! Vinceremo questa battaglia in un solo colpo!» Conan scosse il capo. «Se dovessimo combattere un nemico naturale sarei d'accordo, però questa confusione è più simulata che reale, come se volesse attirarci in una carica. Temo una trappola!» «Allora vi rifiutate di muovervi?» strillò Tespides. Il suo viso era oscurato dall'ira. «Cerca di ragionare!» gli disse Conan. «Abbiamo il vantaggio della posizione!» Con una furiosa imprecazione, Tespides voltò il cavallo e tornò al galoppo nella valle dove i suoi cavalieri l'attendevano impazienti. Amalric scosse il capo. «Non avresti dovuto lasciarlo ritornare, Conan! Io... Guarda là!» Conan balzò in piedi con un'imprecazione. Tespides aveva raggiunto i suoi uomini. Potevano appena udire la sua voce impersonale, ma i suoi gesti verso l'orda in avvicinamento erano sufficientemente significativi. L'istante successivo, 500 lance si abbassarono e la compagnia d'acciaio tuonò il galoppo lungo la valle. Un giovane paggio giunse di corsa dalla tenda di Yasbela, strillando verso Conan con un'acuta voce ansiosa. «Mio signore, la principessa chiede perché non seguite e aiutate il conte Tespides!» «Perché io non sono sciocco quanto lui!» bofonchiò Conan, risedendosi sul masso e iniziando a rosicchiare un enorme osso di manzo. «Il potere ti rende molle!» sentenziò Amalric. «Simili pazzie erano sempre state una tua particolare predilizione!» «Certo, quando avevo solo la mia vita da tenere da conto!» rispose Conan. «Adesso... cosa diavolo?» L'orda si era fermata. Dall'ala esterna uscì un carro da guerra, il cui auriga nudo sferzava il destriero come un pazzo. L'altro occupante era un'alta figura, la cui veste fluttuava spettrale nel vento. Tra le braccia reggeva una grande brocca d'oro, dalla quale versava un sottile flusso che scintillava sotto il sole. Il carro attraversò l'intero fronte dell'orda del deserto e dietro le sue tonanti ruote rimase, come la scia di una nave, una lunga e sottile linea polverulenta che brillava sulla sabbia come la fosforescente traccia di un serpente. «Quello è Natok!» imprecò Amalric. «Quale diabolico seme sta seminando?» I cavalieri alla carica non avevano mutato il loro passo travolgente. Ancora 50 passi e si sarebbero schiantati contro le schiere composite dei cusciti che rimanevano immobili con le lance levate. Adesso i primi cavalieri avevano raggiunto la sottile linea che luccicava nella sabbia. Non prestarono attenzione alla strisciante minaccia. Però, non appena gli zoccoli ferrati dei cavalli colpirono la sostanza, fu come se l'esca avesse colpito la selce, ma con un risultato ancora più terribile. Una terrificante esplosione scosse il deserto, che sembrò spaccarsi in due lungo quella linea tracciata con un orribile avampare di fiamme bianche. In quell'istante, l'intera prima linea dei cavalieri venne avviluppata dalle fiamme. I cavalli e i loro cavalieri in armatura arsero nel bagliore come insetti in un falò. L'istante successivo, le file che seguivano si ammassarono sui loro corpi carbonizzati. Incapaci di frenare la loro carica, fila dopo fila andarono verso la rovina. Con una stupefacente rapidità, La carica era divenuta una carneficina, dove figure coperte di ferro morivano tra cavalli, mutilati e urlanti. A quel punto, l'illusione della confusione svanì quando l'orda si dispose in linee ordinate. I selvaggi cusciti si gettarono nel massacro, trafiggendo i feriti, spaccando gli elmi dei cavalieri con pietre e martelli di ferro. Tutto terminò così rapidamente che gli spettatori sui pendii rimasero attoniti. Poi l'orda avanzò nuovamente, dividendosi per evitare i resti carbonizzati dei cadaveri. Dalle colline si levò un grido. «Combattiamo diavoli, non uomini!» Su entrambi i lati i montanari vacillarono. Uno corse verso il plateau, la bava che gli gocciolava dalle labbra. «Ah, fuggiamo, fuggiamo!» biascicava. «Chi può combattere la magia di Natok?» Con un ringhio Conan balzò dalla sua roccia e lo colpì con l'osso di manzo. Il montanaro stramazzò mentre il sangue gli colava dal naso e dalla bocca. Conan sguainò la spada con gli occhi ridotti a due fessure di fuoco azzurro. «Tornate ai vostri posti!» tuonò. «Se qualcun altro fa un passo indietro, gli stacco la testa dal collo! Combattete, maledetti!» Lo sbandamento terminò altrettanto rapidamente di come s'era iniziato. La fiera personalità di Conan era come un secchio di acqua ghiacciata sul loro turbinante fuoco di terrore. «Ai vostri posti!» disse rapidamente. «E manteneteli! Né uomo né demone oggi passerà oltre il passo di Shamla!» Dove il bordo del plateau si interrompeva contro il pendio della valle, i mercenari strinsero le loro cinture e impugnarono le lance. Dietro di loro, i lancieri balzarono in sella i loro cavalli e su un lato vennero disposti picchieri di coraggio come riserve. Ayasmela, in piedi, pallida e senza parole di fronte all'ingresso della sua tenda, l'esercito sembrava una pietosa manciata in confronto all'enorme moltitudine dell'orda del deserto. Conan si mise tra i lancieri. Sapeva che gli invasori non avrebbero tentato di lanciare i carri da guerra alla carica su per il passo, proprio tra le grinfie degli arcieri, ma grugnì di sorpresa nel vedere i cavalieri smontare. Quei selvaggi non avevano carovane di salmerie. Borracce e otri penzolavano dalle loro selle. Adesso bevevano le loro ultime riserve d'acqua e gettavano via le borracce. «Questa è la stretta della morte», mormorò quando formarono uno schieramento a piedi. «Avrei preferito una carica di cavalleria. I cavalli feriti si imbizzarriscono e rovinano gli schieramenti». L'orda aveva assunto la forma di un enorme cuneo, la cui punta era formata dagli stigiani e dal corpo degli assuri in cotta di maglia, fiancheggiati dai nomadi. In formazione serrata, gli scudi sollevati avanzarono come una valanga, mentre dietro di loro un'alta figura su un carro da guerra immobile sollevava, in macabra invocazione, le braccia avvolte da ampie vesti. Quando l'orda entrò nell'ampia imboccatura della valle, i montanari scagliarono le loro frecce. Nonostante la formazione protettiva degli uomini, caddero a dozzine. Gli stigiani avevano messo da parte gli archi, con le teste ricoperte d'acciaio chine sotto le raffiche e gli occhi scuri fiammeggianti sopra i bordi degli scudi, l'orda avanzò come un'onda inesorabile, calpestando i compagni caduti. Però gli scemiti risposero all'attacco e la nube di frecce oscurò il cielo. Conan fissò la gonfia marea di lance e si chiese quale nuovo orrore sarebbe stato evocato dallo stregone. In qualche modo sentiva che Natok, come tutti quelli della sua schiatta, era più terribile in difesa che in attacco. Assalirlo significava cercare la sconfitta. Però era sicuramente la magia che spingeva l'orda nelle fauci della morte. Conan trattenne il fiato di fronte al massacro che avveniva tra le file in avanzata. I lati del cuneo sembrarono svanire e già la valle era ricoperta di morti. Eppure i sopravvissuti avanzavano come folli, incuranti della morte. Grazie al solo numero delle loro frecce, incominciarono a sopraffare gli arcieri sui crinali. Nuvole di dardi sfrecciavano verso l'alto, costringendo i montanari al riparo. Il panico si impadronì dei loro cuori di fronte a quell'inesorabile avanzata e tendevano i loro archi disperatamente, gli occhi baluginanti come quelli di un lupo in trappola. Quando l'orda si avvicinò alla strozzatura del passo, diversi macigni iniziarono a rotolare, tonando verso il basso e schiacciando gli uomini a decine. Ma la carica non vacillò. I lupi di Conan si sistemarono per l'inevitabile impatto. Nella loro formazione serrata e grazie all'armamento migliore subirono pochi danni dalle frecce. Era l'impatto con la carica che Conan temeva, quando l'enorme cuneo si fosse abbattuto contro le sue sottili schiere. E in quel momento comprese che non c'era modo di fermare quel massacro. Strinse la spalla di uno Zaemi che si trovava lì vicino. «Non c'è alcun modo per cui uomini a cavallo possono scendere nella Valle Cieca oltre il margine occidentale!» «Sì, un sentiero ripido e pericoloso, segreto e sempre sorvegliato! Però...» Conan lo trascinò fino dove Amalric era fermo sul suo enorme cavallo da guerra. «Amalric!» sbottò. «Segui quest'uomo, ti condurrà nella valle esterna! Una volta là, supera il bordo del costone e attacca l'orda alle spalle! Non dire nulla, ma vai! Lo so che è una cosa folle, però siamo comunque spacciati! Cercheremo di infliggere il maggior danno possibile prima di morire! Sbrigati!» I baffi di Amalric vibrarono in un ghigno feroce e pochi istanti dopo i suoi lancieri seguivano la guida in un groviglio di gole che si allontanavano dal plateau. Conan corse fino ai picchieri con la spada in mano. Non arrivò in anticipo. Su entrambi i costoni i montanari di Shupras, folli per l'imminente disfatta, facevano piovere disperatamente le loro frecce. Nella valle e sui crinali gli uomini morivano come mosche. Poi, con un ruggito e una carica inarrestabile, gli stigiani si abbatterono contro i mercenari. In un uragano di acciaio tonante, le linee si piegarono e ondeggiarono. Si trattava di nobili addestrati alla guerra contro soldati professionisti. Gli scudi cozzarono contro gli scudi. Poi, in mezzo a loro, si insinuarono le lance e il sangue prese a scorrere. Conan vide la possente figura del principe Cutamun in mezzo alla selva di lame, ma la pressione lo bloccava, fronteggiato da vicino da forme scure che ansimavano e vibravano fendenti. Dietro gli stigiani premevano gli assuri urlanti. Su entrambi i lati i nomadi scalavano le pareti giungendo a contatto con i loro simili di montagna. Lungo tutta la cresta il combattimento infuriò con accecante e inusitata ferocia. Con le unghie, con i denti, schiumanti per il fanatismo e gli antichi odi tribali, i montanari e i nomadi squartavano, uccidevano e morivano. Con i capelli scarmigliati al vento, i nudi cusciti si unirono alla lotta ululando. A Conan, con gli occhi offuscati dal sudore, sembrò di osservare un oceano d'acciaio in tempesta frantumarsi e turbinare, riempiendo la valle da una sponda all'altra. La lotta era giunta a un sanguinoso punto morto. I montanari tenevano le sponde e i mercenari, stringendo le loro picche grondanti di sangue, puntavano i piedi sulla terra insanguinata tenendo la posizione. Il vantaggio della postazione e dell'armamento per un poco bilanciarono la superiorità del numero. Però non poteva durare. Ondata dopo ondata, visi inferociti e lance lucenti salivano il pendio e gli assuri riempivano i vuoti nelle file degli stigiani. Conan si sforzò di vedere se le lance di Amalric avessero aggirato il margine occidentale, ma non comparvero e i picchieri cominciarono ad arretrare sotto l'impatto. Conan perse ogni speranza di vittoria. Urlando un ordine ai suoi ansimanti capitani, si sganciò e corse lungo il plateau verso la riserva di Coraja, ferma e vibrante per l'impazienza. Non degnò neppure di uno sguardo la tenda di Yasmela. Si era dimenticato della principessa. Il suo unico pensiero era quello dell'animale selvaggio che desidera uccidere prima di morire. «Quest'oggi diverrete cavalieri!» rise ferocemente, indicando con la spada gocciolante sangue i cavalli dei montanari radunati poco distanti. «Montate e seguitemi all'inferno!» I cavalli di montagna si impennarono violentemente sotto l'impatto sconosciuto dell'armatura cotiana. E la possente risata di Conan si levò sopra il frastuono quando condusse i cavalieri dove il margine orientale si divideva dal plateau. 500 fanti, patrizi poveri, figli cadetti, pecore nere, su cavalli scemiti semi-selvaggi caricarono un'armata lungo un pendio dove mai una cavalleria aveva prima d'allora condotto un assalto. Superata l'imboccatura del passo, occlusa dalla battaglia, caricarono lungo il margine ricoperto di cadaveri. Sciamarono lungo il ripido pendio e a decine scivolarono e rotolarono sotto gli zoccoli dei loro compagni. Sotto di loro gli uomini urlarono e alzarono le braccia e la carica tonante li calpestò come una valanga spazza via una foresta di alberelli. I corajani si lanciarono contro le schiere compatte, lasciando un tappeto di morti calpestati. E poi, nel momento in cui l'orda fremette e si ritrasse su se stessa, i lancieri di Amalric, superato un cordone di cavalieri avversari incontrati nella valle esterna, oltrepassarono l'estremità del margine occidentale e si abbatterono sull'orda come un cuneo di acciaio, scompaginandola. Quell'attacco causò alla retroguardia tutta l'ottenebrante demoralizzazione di una sorpresa. Credendosi attaccati da una forza superiore e terrorizzati dalla paura di essere tagliati fuori dal deserto, sciami di nomadi si diedero alla fuga, portando alla distruzione tra le schiere dei loro compagni più disciplinati. Questi ultimi vacillarono e i cavalieri li superarono. Sul margine del deserto i soldati vacillarono e i montanari si avventarono su di loro con rinnovata furia, scacciandoli dai pendii. Stordita per la sorpresa, l'orda si frantumò prima di rendersi conto che era solo un manipolo quello che li attaccava. E una volta frantumata, neppure un mago poteva rimetterne insieme una simile. In mezzo a quel mare di teste e di lance, i folli guerrieri di Conan videro i cavalieri di Amalric avanzare gradatamente tra gli uomini in ritirata, asce e mazze levarsi e abbattersi. E una folle gioia di vittoria esaltò il cuore di ogni uomo e rese d'acciaio il suo braccio. Puntellando i piedi nello schiumante mare di sangue, le cui onde cremisi lambivano le loro caviglie, i picchieri all'imboccatura del passo avanzarono schiacciando inesorabilmente le schiere davanti a loro. Gli stigiani mantennero le posizioni, ma dietro di loro gli assuri si dispersero e sopra i corpi dei nobili del sud che morirono sul posto fino all'ultimo uomo rotolarono i mercenari per spaccare e schiacciare l'ondeggiante massa retrostante. In alto, sulla cresta, il vecchio Shupras giaceva con una freccia nel cuore. Amalric era stato abbattuto, imprecando come un pirata, con una lancia attraverso la coscia. Della fanteria a cavallo di Conan, appena 150 uomini rimanevano in sella. Però l'orda era stata dispersa. Nomadi e lancieri con la corazza sciamavano, fuggendo verso il loro campo dove avevano i cavalli, e i montanari li seguirono scendendo dai pendii, colpendo alle spalle i fuggitivi, tagliando la gola ai feriti. Nella rosseggiante, turbinante confusione, improvvisamente comparve davanti al cavallo di Conan una terribile apparizione. Si trattava del principe Cutamun, nudo salvo un perizoma, con la corazza a pezzi, l'elmo crestato ammaccato, le braccia e le gambe ricoperte di sangue. Con un urlo terribile scagliò l'elsa spezzata contro il volto di Conan, per poi balzare ed afferrare le briglie dello stallone del cimmero. Conan si girò sulla sella mezzo stordito e con uno sforzo terribile il gigante dalla pelle scura costrinse il cavallo fremante a sollevarsi e poi lo spinse all'indietro fino a fargli perdere l'equilibrio, facendolo cadere nella viscida sabbia intrisa di sangue e cosparsa di cadaveri. Conan balzò giù dalla sella quando il suo destriero cadde e con un ruggito Cutamun gli fu sopra. In quel folle incubo il barbaro non seppe mai bene come fece uccidere quell'uomo. Si ricordò solo che una pietra nelle mani dello stigiano si abbatté più volte sul suo elmo riempiendogli la vista di scintille lucenti, mentre lui affondava più volte il pugnale nel corpo del suo avversario senza produrre alcun effetto visibile sulla terribile vitalità del principe. Il mondo stava turbinando davanti agli occhi di Conan quando con un fremito convulso il corpo che si dibatteva contro il suo si irrigidì e poi si accasciò. Alzandosi barcollante, con il sangue che gli colava sul volto da sotto l'elmetto ammaccato, Conan fissò stordito l'enorme distruzione che si stendeva davanti a lui. Da una cresta all'altra erano distesi i morti, un tappeto rosso che soffocava la valle. Era simile a un mare purpureo in cui ogni onda era una fila di cadaveri. Soffocavano l'imboccatura del passo, tappezzavano i pendii. E il massacro continuava nel deserto, dove i sopravvissuti dell'orda avevano raggiunto i loro cavalli e si disperdevano nella piana desolata, inseguiti dagli stanchi vincitori. Conan rimase stupito quando notò quanto pochi erano quelli che venivano inseguiti. Poi un urlo terribile lacerò il clamore. un carro da guerra giunse di corsa nella valle, senza curarsi dei cadaveri ammucchiati. Non era trainato da un cavallo, ma da una grande creatura nera simile a un cammello. Sul carro si trovava Natok, con le vesti fluttuanti e rannicchiato con le redini in pugno e sferzando come un pazzo, un nero essere antropomorfo che avrebbe potuto essere una scimmia mostruosa. Come un soffio di vento ardente, il carro oltrepassò il pendio ricoperto di corpi, dirigendosi direttamente verso la tenda, dove Yasmela si trovava sola, abbandonata dalle sue guardie, prese dalla frenesia dell'inseguimento. Conan, raggelato, udì il grido atterrito della giovane donna, quando il lungo braccio di Natok l'afferrò portandola sul carro. Poi il terrificante destriero girò e si diresse rapidissimo verso l'uscita della valle, e nessun uomo osò scagliare una freccia o una lancia nel timore di colpire Yasmela che tremava tra le braccia di Natok. Con un grido disumano Conan raccolse la sua spada e si parò sul percorso di quell'orrore sfrecciante. Però, mentre sollevava la spada, la zampa anteriore dell'animale nero lo colpì come una folgore e lo fece volare una decina di passi indietro, stordito e contuso. Il grido di Yasmela giunse ossessionante alle sue orecchie stordite quando il carro lo superò. Un altro urlo, che nulla aveva di umano, echeggiò dalle labbra di Conan, quando il barbaro, balzato in piedi dalla terra insanguinata, afferrò le redini di un cavallo senza cavaliere che gli passava accanto e gli saltò in sella senza fermarlo. Come un folle, corse dietro al velocissimo carro. Abbattendo ogni ostacolo, Conan superò come un turbine il campo scemita. Quindi penetrò nel deserto, superando drappelli di cavalieri e di nomadi che spronavano i loro destrieri. Il carro continuava la sua corsa e Conan lo tallonava, sebbene il suo cavallo iniziasse a vacillare. Davanti a sé aveva l'arido deserto, bagnato dal desolato splendore del tramonto. Quando davanti al cimmero si levarono le antiche rovine, con un grido che raggelò il sangue nelle vene, l'auriga inumano si liberò di Natok e della ragazza. Entrambi rotolarono nella sabbia e sotto lo sguardo attonito di Conan, il carro e il suo destriero si tramutarono orribilmente. Enormi ali spuntarono da un orrore tenebroso che non somigliava più a un cammello e che salì verso il cielo lasciando dietro di sé una forma di fiamme accecanti, nella quale una sagoma umana di colore nero farfugliava in un orribile trionfo. Avvenne tutto così rapidamente che fu simile al passaggio di un incubo durante un sogno pauroso. Natok balzò in piedi e gettò una rapida occhiata al suo cupo inseguitore che non si era fermato, ma che cavalcava risoluto con la spada abbassata gocciolante sangue. Lo stregone raccolse la ragazza semi svenuta e corse con lei verso le rovine. Conan balzò di corsa da cavallo e si lanciò al loro inseguimento. Entrò in una stanza che brillava di una luce diabolica, sebbene all'esterno la notte stesse rapidamente calando. Yasmela giaceva su un altare di giada nera e il suo corpo nudo luccicava come avorio in quella luce bizzarra. I suoi abiti erano stati gettati sul pavimento, come se le fossero stati strappati con fretta brutale. Natok fronteggiava il cimmero. Disumanamente alto e magro, era abbigliato con una scintillante tunica di seta verde. Quando gettò all'indietro il velo, Conan fissò i lineamenti che aveva già visto rappresentati sulla moneta zuagita. «Sei cane, indietreccia!» La voce era simile al sibilo di un enorme serpente. «Sono Tugra Khotan!» A lungo ho giaciuto nella mia tomba, in attesa del giorno del risveglio e della libertà. Le arti che mi hanno salvato dai barbari tanto tempo fa mi avevano anche imprigionato, ma sapevo che qualcuno sarebbe giunto prima o poi. Ed ecco che è venuto per adempiere il mio destino e per morire come nessun uomo era più morto da 3.000 anni. Sciocco! Credi di avermi sconfitto perché hai disperso il mio popolo? Perché sono stato tradito e abbandonato dal demone che avevo fatto mio schiavo? Io sono Tugra Khotan, che governerà il mondo, nonostante i tuoi miserabili dei. Il deserto brulica della mia gente. I demoni della terra obbediranno ai miei ordini, così come i rettili. La bramosia per una donna ha indebolito la mia magia, ma adesso è nelle mie mani e saziandomi della sua anima diventerò invincibile. Indietro, stolto! Non hai sconfitto tu, Gracotan! Lo stregone gettò il suo bastone, che cadde ai piedi di Conan, il quale si ritrasse con un grido involontario. Infatti, quando il bastone cadde, si tramutò orribilmente. La sua forma si dissolse e vibrò, e un cobra si levò sibilando davanti all'atterrito cimmero. Con una furiosa imprecazione, Conan colpì e la sua spada spezzò a metà l'orrendo animale. Ma là, ai suoi piedi, giacque solo il bastone di ebano diviso in due pezzi. Tugra Khotan rise in maniera orribile e, girandosi, raccolse qualcosa che strisciava sulla polvere del pavimento. Nella mano protesa del negromante si agitava qualcosa di vivo e coperto di bava. Non era un trucco questa volta. Nella mano nuda, Tugra Khotan stringeva uno scorpione nero lungo più di un piede. Era la creatura più micidiale del deserto, dal colpo mortifero della sua coda appuntita. Il volto scheletrico di Tugra Khotan si aprì in un ghigno malefico. Conan esitò. Poi, senza preavviso, scagliò la sua spada. Colto di sorpresa, Tugra Khotan non ebbe il tempo di evitare il tiro. La punta lo colpì sotto il cuore e sporse di un piede dalla schiena. Lo stregone cadde al suolo, schiacciando il mostro velenoso mentre cadeva. Conan si precipitò sull'altare, sollevando Yasmela con le braccia lorde di sangue. La donna, con un gesto convulso, gli gettò le candide braccia attorno al collo circondato dalla corazza, singhiozzando istericamente e senza accennare a mollare la presa. «Per i diavoli di Crom, ragazza!» bofonchiò il cimmero. «Lasciami! 50.000 uomini sono morti oggi e ho parecchio lavoro da fare!» «No!» gemette lei, stringendosi con una forza convulsa che la paura e la passione rendevano in quell'istante barbarica come quella di Conan. «Non ti lascerò. Sono tua per il fuoco, l'acciaio e il sangue. Tu sei mio. Laggiù io appartengo ad altri. Ma qui sono mia. E tua. Non devi andartene.» Conan esitò. Il suo cervello turbinava per il fiero montare delle sue violente passioni. Il lurido e diabolico bagliore gravava ancora nella camera tenebrosa, illuminando spaventosamente il viso morto di Tugra Khotan, che sembrava ghignare senza divertimento e cupamente verso di loro. Fuori, nel deserto e nelle colline, tra l'oceano dei morti, gli uomini morivano, ululando per le ferite, la sete e la follia, e i regni vacillavano. Poi ogni cosa venne spazzata via dall'onda cremisi che montò senza freni nell'animo di Conan, quando strinse, forte, tra le sue braccia d'acciaio, il candido e snello corpo, che scintillava come un fuoco stregato dalla passione, davanti al barbaro. Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan, Colosso Nero. Grazie per l'ascolto.